30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. L'Italia resta OGM free. A deciderlo la commissione sementi del Ministero dell'Agricoltura, che ha negato l'iscrizione nel registro all'ormai famoso MON 810, il mais transgenico della Monsanto che l'agricoltore friulano Silvano Della Libera si apprestava a seminare, forte della sentenza del gennaio scorso del Consiglio di Stato che, in seguito al suo ricorso, imponeva all'Italia di avviare il procedimento di autorizzazione alla semina. Tutto questo pochi giorni dopo il via libera di Bruxelles alla patata anflora della BASF. Il governo aveva assunto una posizione analoga di blocco, ricorrendo al principio di precauzione che lascia liberi gli stati di scegliere se consentire o meno la produzione di un organismo OGM. Buonasera, ancora buonasera a tutti da Gigi Donelli. E dunque nuovamente un mese di sussulti sul fronte del biotech in agricoltura in particolare. Il 3 marzo scorso la Commissione europea ha dunque rotto una moratoria durata 12 anni autorizzando la coltivazione di una patata geneticamente modificata, la Anflora della tedesca BASF. Era dal 1998 che la Commissione non autorizzava più nuove coltivazioni OGM. Bruxelles però si sta orientando in generale verso la decisione di lasciar scegliere agli Stati membri se consentire o meno le colture transgeniche sui loro territori. I paesi, insomma, che non vogliono aprirsi a queste nuove coltivazioni sono dunque autorizzate a farlo. Insomma, facciamo il punto su questo tema ricorrente in realtà nei nostri appuntamenti, delicato e importante. Ci aiuta a farlo questa sera il dottor Morandini. Buonasera dottore. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Morandini innanzitutto è un chimico, borsa di studio alla Max Planck di Monaco, ha un curriculum molto lungo, intenso, che lo porta in Germania, lo porta nel Regno Unito, è autore di 20 pubblicazioni su riviste con referaggio, 2 contributi a libri nel settore della biologia molecolare e biotecnologia vegetale. Insomma, è un esperto di questo settore e anche membro del Consiglio Scientifico delle Biotecnologie Agrarie della Regione Lombardia. Prima domanda, dottor Morandini, che cos'è questa Anflora, questa patata, che ruolo svolge la patata nell'alimentazione mondiale? Allora, la patata è chiaramente una cultura molto importante nell'alimentazione, è la quarta cultura per calorie, quindi c'è tantissima gente che la mangia, tantissima gente che si sostiene con le patate. Non è però, qua non si sta parlando di una patata per il consumo umano, ma di una patata che serve per la produzione industriale. Insomma, perché Anflora non è stata ingegnerizzata per essere mangiata, ma no. Per che cosa? Per praticamente produrre un tipo di amido che serve molto all'industria. Ora possiamo dire non vogliamo Anflora, però bisogna sapere che molte altre culture sono coltivate e usate per lo stesso scopo. Ci sono dei mais, c'è il riso, c'è tutta una serie, altre serie di varietà. Ecco, ci arriviamo tra un momento. Perché si interviene in generale per modificare geneticamente un prodotto naturale? Allora, innanzitutto tutte le colture non sono prodotti naturali intesi nel senso normale, ma su questo chiaramente occorre tornarci e spiegare per bene, ma nel momento in cui lei ha bisogno di un tipo di amido, o va per il procedimento industriale, cioè c'è proprio un processo che tende a separare i due amidi, oppure crea o genera una nuova varietà che ne produce solo uno dei due. Quindi non, siccome l'amido viene usato nell'industria, viene usato in grande quantità, il punto è che ci vogliono delle sorgenti, quindi uno può decidere quale preferisce. Ecco, si tende dunque a specializzare lo si fa storicamente da millenni nell'allevamento, lo si fa anche nel mondo vegetale, cioè lo si faceva anche prima della genetica. Assolutamente sì, perché tutte le colture sono profondamente modificate dal punto di vista genetico rispetto alle loro controparti convenzionali, a quelli che sono i cosiddetti progenitori delle colture. Pensi al frumento, al riso, al mais, sono quasi irriconoscibili rispetto alla cultura da cui derivano, alla cultura selvatica. Ecco, ma allora perché farlo per via genetica? Perché chi teme questo intervento, evocando anche spettri sull'intervento sul DNA, può chiedersi allora perché non continuare a farlo nella maniera tradizionale, magari più efficiente, ma comunque coi vecchi principi. Sì, c'è un grossissimo scandalo per me che qua bisogna portare, che non è che le modificazioni che si facevano da 12.000 anni a questa parte non fossero attraverso i geni, passavano attraverso i geni e passano sempre attraverso i geni, cioè nel momento in cui lei ha una patata con una nuova modifica, la può fare per transgenesi, la può fare con l'ingegneria genetica o lo può fare con la mutagenesi, con tantissimi altri metodi, ma tutte passano attraverso colpendo i geni, modificando i geni, quindi dire che solo i transgenici sono geneticamente modificati è una cosa assolutamente fuori dalla realtà. Attiveremo tutte le procedure come previsto dal regolamento comunitario per avviare la clausola di salvaguardia, il che significa bloccare la commercializzazione e la coltivazione di questa patata sul territorio nazionale. Il 75% degli italiani intervistati si dichiara contrario agli OGM sia per l'alimentazione che per la coltivazione. Io faccio parte di questa squadra. Questo l'avete sentito, probabilmente l'avrete riconosciuto, è il ministro Zaia. Ecco, perché secondo lei il 75% degli italiani fa parte della squadra di cui dice il ministro far parte anche lui? Cioè di chi è comunque contrario all'idea che i nostri campi, che sulle nostre tavole ci siano prodotti geneticamente modificati? Allora, innanzitutto non so se quella lì è il numero reale, perché dipende chiaramente da come è fatto il sondaggio. Secondo, se anche fosse vero che Zaia fa parte di quella squadra lì, mente sapendo di mentire, perché lui come ministro dell'agricoltura deve sapere che importiamo 4 milioni di tonnellate all'anno di soia e derivati da Argentina e Brasile, che coltivano transgenico fra il 50 e il 100%. Quindi lei sta dicendo, noi in realtà lo non solo come dire frequentiamo il mondo del geneticamente modificato, lo facciamo anche direttamente a tavola? Più che a tavola, attraverso le bestie, perché tutta quella soia lì va poi usata come mangime per le bestie. L'alimentazione animale. Esatto, ma l'agricoltura italiana si fermerebbe se non avessimo quel livello di importazione. Ecco, a proposito di livelli di importazione, lei ha descritto in un flash di fatto una differenza enorme, una separazione tra l'Europa da una parte e il mondo americano. 64 milioni di ettari, leggo su una scheda, di ettari coltivati OGM negli Stati Uniti. Poi ci sono naturalmente la Cina e l'India, i numeri sono un po' più incerti. Insomma, l'1% solo nel territorio invece coltivabile dell'Unione Europea. Chi non lo vuole dice anche non voglio esserne contaminato, cioè non voglio che da una piantagione, dal mais transgenico, si trasferisca a un mais diverso, tradizionale, anche se mi rendo conto che l'uso di questo termine lascia un po' il tempo che trova. Insomma, come si può ed è ragionevole pensare di escludere le contaminazioni tra i generi? Allora, ci sono due aspetti da questo punto di vista. Prima di tutto, se non è un prodotto buono non dovremmo neanche importarlo. Io sono convinto che sia buono e non sono contrario a questo, ma se non fosse buono il ministro dovrebbe proibire l'importazione. Pretendere solo che noi non lo coltiviamo ma ne consumiamo quantità stratosferiche è una posizione, mi sembra, molto ipocrita, perché se ci sono dei problemi che si saltino fuori, altrimenti... Cioè lei dice se c'è un problema di salute, se c'è un problema di contenuto del prodotto, e chiaramente bisogna intervenire in quanto tale, non tanto perché OGM. Se anche fosse solo un problema di coltivazione, perché dobbiamo subappaltare questi problemi ai paesi terzi? Cioè, mi sembra una posizione troppo di comodo questa. Ecco, questa vicenda credo non solo a me e non so a lei, insomma, evoca moltissimo anche un dibattito che ci riporta agli anni 80, al nucleare, ma insomma, per concludere, diciamo, sui ministri, il ministro Zaia è tutt'altro che isolato in questo campo, il ministro francese ha tutto sommato un approccio simile, cioè c'è comunque la sensazione che su questi temi è comunque più saggio e più facile da comunicare un messaggio di estrema prudenza. Sono d'accordo, è evidente che per loro è più facile comunicare questo, specialmente tenendo conto che la maggior parte della gente non ha né gli strumenti né il desiderio magari di approfondire certe questioni, ma questo non vuol dire che stia facendo il bene dell'agricoltura italiana e quindi ultimamente dell'Italia. Ecco, il bene dell'agricoltura, e magari tra un momento ragioniamo anche su altri interessi che sono assolutamente legittimi. Per esempio, un punto che mi piacerebbe affrontare, adesso ci interrompiamo un attimo per sentire insieme come vanno le cose sulle strade italiane, ma dicevo, un punto che è assolutamente importante è quello dell'ipotesi, diciamo, che il meccanismo possa sfuggire di mano, che il meccanismo dell'OGM possa minacciare in futuro addirittura il sistema delle risorse agroalimentari del nostro pianeta. 30 minuti in cronaca. Dottor Morandini, dunque, è possibile, è realistica la minaccia paventata da alcuni che in qualche modo il meccanismo degli OGM possa sfuggire di mano e condizionare, addirittura minacciare il futuro delle risorse agroalimentari del pianeta? Ma questa è una di quelle storie che si sentono girare, però essenzialmente è un mito, perché gli OGM non sono altro che delle piante coltivate e che, come tutte le piante coltivate, sono deboli, non riescono a sopravvivere da sole nell'ambiente se non ci fosse l'uomo che le prende, le cura, raccoglie la semente, la concima, irriga, eccetera, eccetera. Cioè l'OGM non è la super pianta che cancella tutto il resto, che colonizza i territori. Lei mi dica quante piante di mais ha visto crescere fuori dei campi coltivati, o quante piante di frumento, di riso, o di patata. Io nessuna, ma non faccio testo, nel senso, vuol dire che quelle piante, OGM o non OGM, non esistono delle piante cannibali, nel senso super potenti perché OGM, ho capito bene? Assolutamente, lei prenda tutte le piante, tutte le cosiddette infestanti, piante infestanti che sono spesso volentieri delle erbacce, ma non solo, lei le trova dappertutto e nessuno le ha mai seminate in giro. Non so, pensi anche a delle piante come la robinia, che si trova un pochino in giro in tutta Italia. Quella lì è una pianta selvatica che ha conquistato mezza Italia. Ma una pianta di mais la trova solo nei campi coltivati, perché? Perché è stata tutta ingegnerizzata, diciamo, da millenni per essere utile all'uomo, ma se è utile all'uomo non può essere allo stesso tempo capace di competere bene in natura. Well, DNA, it's natural, it's the building block of life, and when the good Lord put it together, you know, I think he did it upright. Insomma, intorno a questi temi naturalmente c'è un grandissimo dibattito, addirittura scontro, è persino difficile a volte cercare delle posizioni anche di mediazione, di riflessione tra gli schieramenti. Uno dei temi che viene sollevato regolarmente è il cosiddetto argomento sociale. Per esempio, da un lato la Chiesa romana dice sì agli OGM per sostenere la produttività dei più poveri, quindi per elevare la qualità della vita di chi ne ha più bisogno. Una parte del mondo verde, alcuni attivisti, tra cui l'indiana per esempio Vanda Shiva, dice no, è una trappola, gli OGM uccidono i piccoli agricoltori. Allora Morandini, lei che ne pensa? Allora, il dato di fondo è che su 14 milioni di agricoltori che coltivano gli OGM in tutto il mondo, 13 milioni di agricoltori sono appunto quelli dei paesi in via di sviluppo. L'India è un esempio lampante: l'80% della superficie dei cotoni in India è coltivata col cotone BT, che è resistente agli insetti. Ora, qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che questi milioni e milioni di contadini vadano a comprare i semi, o in qualche modo riescono a metterci le mani sopra, li coltivino e aumentino di anno in anno. Se questi semi producono di meno, costano di più, fanno consumare lo stesso i composti chimici, non vedo alcun motivo che possa costringere questi contadini a comprarli e ad usarli. Cioè lei dice, se applichiamo i principi del liberismo al mercato, anche al mercato agricolo, cosa che sarebbe naturale, i risultati dimostrerebbero la bontà del prodotto? Prima ancora che i principi del liberismo, il principio che si lascia il contadino decidere quello che è più giusto che lui semi nel suo campo sulla base della sua esperienza e dei suoi risultati. Ecco, si parla di sterilità dei semi, si parla del fatto che una volta utilizzato in qualche modo il contadino viene intrappolato in questa dinamica. Allora, questa è un'altra di quelle bufole che girano su internet da tanti anni, ma non c'è alcuna pianta che sia stata resa sterile apposta fra gli OGM, fra i prodotti, diciamo, in coltivazione adesso di tipo transgenico, non c'è nessuna che sia stata resa sterile apposta, quindi nessuno è costretto di per sé ricomprarla. Anzi, nei paesi come in Europa addirittura, uno può benissimo prendere il raccolto, se gli permettono di seminare per esempio il mais mono 810 o la soia, di cui non è ancora permessa la coltivazione, ma uno potrebbe salvare parte del raccolto e riseminarlo nella propria azienda senza che ci sia alcun problema, perché la legislazione europea su questo è chiara, c'è il cosiddetto farmer's right, cioè il diritto dell'agricoltore di salvare parte della semente per riusarla lui, non per venderla, ma per riusarla lui. Ecco, dottor Morandini, lei chiaramente ci sta spiegando dal suo punto di vista, da una posizione appunto di quella che è di un ricercatore specializzato nel settore, quelli che sono i vantaggi e che lei riafferma di questi prodotti, ma quali sono allora i difetti? Perché sembra quasi a sentir lei che insomma non ci siano nessun tipo di problemi con gli OGM. OGM e biodiversità, per esempio, sono effettivamente nemici naturali? In generale i problemi degli OGM non sono diversi da quelli delle varietà convenzionali. Per esempio, la gente non lo sa, ma ci sono tantissime varietà di tante culture, per esempio il riso, che sono resistenti agli erbicidi ma che non sono OGM. Quindi se lei mi viene fuori, se una persona mi dice ah guarda, c'è il problema è che queste qua sono resistenti agli erbicidi, non è vero, non è peculiare degli OGM, è peculiare di tutta una serie di piante. Quindi non è i rischi in genere sono gli stessi delle piante coltivate. Seconda cosa invece che la biodiversità. Esatto. Faccio un altro esempio, cotone BT in India, non c'è una varietà di cotone OGM che viene coltivata in India, ce ne sono 600 adesso. In Spagna, dove sono quasi 10 anni che si coltiva il Monsanto, il mais BT resistente agli insetti, ci sono più di 100 varietà coltivate. Quindi l'idea che la transgenia sia in opposizione alla biodiversità non è vera, l'evidenza, e lo stesso vale per la soia in Argentina, la soia in America, sono centinaia di varietà in coltivazione. Anzi, la transgenesi non diminuisce ma aumenta la biodiversità agricola. Perché secondo lei una vasta, così vasta parte anche del mondo diciamo scientifico, anche se è chiaro che poi quando si entra in queste terminologie in realtà le parole perdono quasi peso, nel senso che ci sono milioni di scienziati nel mondo, di ricercatori, e questo non significa, ognuno può in qualche modo scegliere e dare più forza alle parole dell'uno piuttosto che dell'altro, ma la questione è come mai c'è così tanto allarme? Allora, l'allarme in genere non è nella comunità scientifica competente. Di nuovo faccio un esempio. E nei media quindi? Sì, molte media, molto anche diciamo partiti o movimenti di tipo sociale o politico che a volte in totale buona fede e in, diciamo con dei presupposti ottimi, di fatto creano allarmismo, e che l'esempio che io faccio è che se uno deve farsi operare al cuore non viene da me a farsi operare al cuore e non lo posso biasimare perché io prenderei un coltello. Cerca uno specialista. È chiaro, cioè va da uno che ha dimostrato di saper operare il cuore, che ha fatto degli studi per operare il cuore, che ha avuto una pratica, ha avuto degli attestati in qualche modo, un riconoscimento, lo stesso per la questione degli OGM. Tutta la comunità scientifica competente è compatta nel difendere il metodo in sé, e che il metodo di per sé non ci dice niente poi sul prodotto. Bisogna esaminare le caratteristiche del prodotto, e i prodotti fino ad oggi in coltivazione hanno dimostrato dei grandi benefici e dei rischi paragonabili a quelli delle varietà convenzionali. Quindi non vedo alcun motivo per i prodotti diciamo approvati per opporsi. Ecco, in questa vicenda c'è anche, pesa sicuramente anche l'opposizione un po' ideologica nei confronti di alcuni grossi gruppi. È ovvio che le multinazionali di mestiere puntano a fare profitti, e sembra così, come dire, enorme il potere che la scienza, la ricerca e le loro capacità finanziarie mette nelle loro mani da fare paura. Questo è vero, anche questo è un concetto che si trova spesso nei media, ma il potere di una ditta come la Monsanto non è neanche paragonabile al potere, non so, della Lega delle Cooperative in Italia, che è la grande distribuzione, mettiamo, di un tipo o dell'altro, prendo tutti i grandi gruppi. Sì, quindi lei dice non è necessariamente, come dire, il potere dominante quello che appare il più forte. No. Uno, non solo, ma mi spieghi lei perché tutta la gente accetta tutta la tecnologia a livello informatico, a livello anche dei trasporti, che viene da multinazionali, che deve per forza venire da loro, perché nessun artigiano si può permettere di costruire una macchina, no? Eppure si fa dei problemi grossi per quanto riguarda le sementi. È sicuramente un punto di riflessione opportuno. Morandini, il tempo stringe, ancora un paio di domande. La ricerca, insomma, lei non lavora per le multinazionali, non credo, anche da quello che ho letto, che sia, come dire, no, un avvocato delle multinazionali, dice sono un ricercatore. La ricerca pubblica come sta in questo conflitto, diciamo, tra multinazionali e politica e media? Com'è messa? Il risultato che è stritolata, specialmente stritolata perché? Perché tutta la regolamentazione praticamente, e anche la sua implementazione fanatica a volte, specialmente a livello italiano, impedisce per esempio la ricerca di campo, o quando in altri paesi dove si riesce ad avere ricerca di campo i campi sperimentali vengono distrutti, per cui uno non riesce neanche a mettere alla prova il risultato del prodotto della propria ricerca. E la regolamentazione è talmente folle che il costo di sviluppo di una singola pianta transgenica, cioè di portarla fino al mercato, è 10, 20 o anche più milioni di dollari, mentre invece il costo per produrla in sé può essere poche decine o centinaia di euro. È una cosa ridicola il costo in sé del farla. Insomma, lei dice in mezzo a queste vicende ci rimane appunto in mezzo proprio la ricerca. In un'ultima riflessione, leggevo appunto nel suo curriculum che tra le tra i suoi insegnamenti c'è quello della fisiologia cellulare, della fisiologia vegetale, c'è quello di percezione pubblica e comunicazione. Quanto diventa, insomma, questo non è esattamente il titolo che mi aspetterei di trovare in una, in un elenco di corsi di un chimico molecolare. Perché? Perché in tanti posti ci si è resi conto che non è solo importante formare degli studenti che sappiano usare la testa, che sappiano usare gli strumenti della tecnologia, della transgenesi, dell'ingegneria genetica, ma che sappiano anche sapere il valore della scienza e saper difendere il valore della scienza per il benessere di tutte le persone, della società. Non è solo una questione di essere bravi, ma anche sapere com'è possibile difenderla di fronte agli attacchi che oggi tutto sommato riceve proprio da quelli che sono stati più beneficiati, cioè dal mondo occidentale. Grazie a Piero Morandini per questo interessante contributo su un problema molto complesso che noi cerchiamo a Radio 24 con vari attori, varie voci di raccontare, perché di sicuro c'è in questa vicenda che, come dire, la materia è importante, la materia riguarda la ricerca, l'alimentazione, la nostra salute, ma anche il mercato, l'industria, insomma tutte cose di cui naturalmente noi qui a Radio 24 continuiamo ad occuparci. Siamo in conclusione, ricordo solamente radio24.it per sentire e risentire queste e le altre trasmissioni. Auguro a tutti voi un ottimo fine settimana.